Radio 24 Reportage. Teatro, un ritorno in extremis, di Marta Cagnola. Questo reportage non vi parlerà di un luogo o di un evento, ma di una settimana. Una settimana in cui si rischiava di perdere un grande patrimonio e in cui quel grande patrimonio è stato salvato, o perlomeno si sono gettate le basi per continuare a proteggerlo. Stiamo parlando del teatro. In crisi, in pesante crisi, per i tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo. La settimana dei teatri a Radio 24 si è aperta con l'appello di Armando Torno. I tagli economici che in Italia hanno colpito la cultura mettono in pericolo la sopravvivenza stessa dei teatri, la musica, la prosa, insomma alcune tra le più importanti tradizioni del nostro paese, ma compromettono anche l'avvenire di molti giovani che stanno studiando nei conservatori e nelle scuole di recitazione. Se la crisi esige rigore, sacrifici, se obbliga a ridimensionare e contenere, allora non va dimenticato che tali ristrettezze non possono colpire soprattutto la cultura. Che ha responsabilità ci ripensi, perché l'Italia non esisterebbe senza il suo patrimonio artistico e culturale. Senza cultura non c'è futuro. Ogni investimento, ogni impresa hanno bisogno di un sostegno di idee che deve essere alimentato, conservato, tramandato. Il mondo dello spettacolo decide una grande agitazione, uno sciopero per venerdì 25 marzo e tre giornate di mobilitazione il 26, 27 e 28. Scelta significativa, tanto più che proprio il 27 marzo cade la Giornata Mondiale del Teatro. Radio 24 ha deciso così di fare una mappa dei teatri in crisi, girando l'Italia regione per regione, intervista dopo intervista. Adriana Fracchia ha parlato della situazione del Teatro Regio di Torino con il sovrintendente Walter Vergnano. Purtroppo rimarremo in una situazione che non ha futuro, cioè se il Fondo Unico dello Spettacolo dovesse rimanere quello che oggi è previsto, tutti i teatri lirici italiani, tutti, dalla Scala al Regio, al Maggio Musicale Fiorentino, San Carlo di Napoli, eccetera, eccetera, eccetera, chiuderebbero quest'anno. Cioè, questa, a distanza di qualche mese uno dall'altro, chiuderebbero. Cioè, non ci sarebbe in nessun teatro lirico italiano una stagione lirica 2011-2012. Questa è la realtà. Delicata la situazione del Carlo Felice di Genova, così come ce l'ha raccontata il sovrintendente Giovanni Pacor. È la situazione di attesa perché dobbiamo capire finalmente quale sarà la quota che ci spetta e si tenta di fare dei piani, delle strategie e poi ti ricapita qualcosa che ti fa rifare tutto, insomma, però non è che si va da nessuna parte in questo modo. La situazione di Carlo Felice è migliore degli altri teatri. Perché gli altri teatri non hanno il risparmio sul costo del lavoro che noi abbiamo grazie all'intervento dei contratti di solidarietà. Mi piace dire risparmio perché è una cosa fatta sulle spalle dei lavoratori, per cui il minor costo del lavoro del Carlo Felice è dovuto ai contratti di solidarietà. Il problema è assolutamente finanziario in questo momento, perché noi abbiamo costruito un bilancio di previsione in pareggio che ci permette di arrivare al 31 di dicembre senza gravare oltre a quello che è già un gravissimo danno patrimoniale di quasi 18 milioni. Il punto è che noi dovremmo stare nel binario del bilancio di previsione, quindi non sforare, non perdere ulteriori soldi, questo è il mio impegno ovviamente, possibilmente anche guadagnare qualche cosa. Il nostro bilancio di previsione è fatto su una quota minima assicurata sul minimo degli aiuti di qualunque altra cosa per poter cominciare a pagare i debiti che noi abbiamo con i fornitori e con le banche. In una conferenza stampa il 22 marzo si riuniscono le massime associazioni dello spettacolo e della cultura. Vincenzo Miglietta ha intervistato Roberto Grossi, presidente Federculture. Il bilancio del Ministero dei Beni Culturali è arrivato allo 0,18 di tutto il bilancio dello Stato, quindi è una cifra veramente non in grado di garantire le funzioni minime di presidio delle nostre bellezze. Quindi per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana quello che sta succedendo riguarda tutti i settori economici e produttivi della cultura, quindi non solo il FUS, ma anche i beni culturali, le biblioteche, le stesse politiche pubbliche che fanno i comuni sono messe in discussione. Tutto cambia mercoledì 23 marzo. Il ministro ai beni culturali Sandro Bondi si dimette, sostituito da Giancarlo Galan. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta annuncia: il fondo unico per lo spettacolo ritorna ai livelli dell'anno scorso con 428 milioni, anzi qualcosa in più. Lo sciopero del 25 viene revocato. Le giornate di mobilitazione si trasformano in giornate di riflessione e sensibilizzazione. A Radio 24 il direttore del Piccolo Teatro di Milano, Sergio Escobar, intervistato da Alessandra Tedesco, dice: ora ci vuole una costituente per la cultura. Si sono create le condizioni per lanciare una vera e propria costituente per la cultura. Vorrei solo aggiungere, senza nessuna forma di piaggeria, che questa battaglia sia stata condivisa in termini molto concreti, in termini di analisi e non di retorica, dalla radio e dal quotidiano di Confindustria. È secondo me un passaggio storico, perché chi si occupa di produrre profitto e valore capisce che l'investimento nella cultura non è parassitario. Quindi facciamo partire insieme questa costituente, credo che questo ci eviterà nel futuro di dover fare appelli accorati, ma difendere dignità e responsabilità. Quale dovrebbe essere secondo lei il ruolo di questa costituente proprio in concreto? Guardi, molto semplice, di fissare degli obiettivi che sono condivisi. Quando si governa ci si fissano degli obiettivi, poi ci si danno degli strumenti perché questi obiettivi siano raggiunti dai soggetti che sono destinatari di questo compito, attraverso regole chiare che fissino definitivamente come il denaro pubblico e perché il denaro pubblico viene investito, e che elevino anche, me la passi questa cosa, che elevino quel tanto di retorica che c'è di sostituzione del pubblico col privato quando il pubblico non sa come spendere i soldi, secondo quali regole, e che diano quindi la dignità dell'investimento pubblico sia il supporto anche per dignità e coerenza dell'incentivazione all'investimento privato. Insomma, smettiamola di parlare del modello America e costruiamo un modello Italia che risponda alle nostre caratteristiche. Al microfono di Elisabetta Fiorito gioisce il direttore del Teatro dell'Opera di Roma, Catello De Martino. Proprio all'Opera di Roma il maestro Riccardo Muti aveva incontrato il ministro Giulio Tremonti, incontro forse decisivo. Siamo molto ma molto soddisfatti di questa, come dire, soluzione. Il Teatro dell'Opera di Roma in questa circostanza ha giocato sicuramente un ruolo molto importante, abbiamo avuto anche la concomitanza di alcuni eventi, quindi la presenza del maestro Muti, la presenza delle massime autorità dello Stato, quindi abbiamo anche con il sindaco Alemanno, come dire, organizzato questo incontro con il ministro Tremonti, e siamo molto soddisfatti del ruolo che questo teatro è riuscito in questo momento storico. La nostra mappa dei teatri poco a poco quindi cambia volto, anche se le ferite restano, dice il direttore del Teatro Quirino Vittorio Gassman di Roma, Geppi Gleieses. Io penso che quello che noi abbiamo vissuto è un incubo kafkiano dal quale non si esce così facilmente. Lascia delle tracce profonde, secondo me, nei nostri cuori e nelle nostre anime, e mi sembra che il tutto avvenga in ogni caso con un ritardo pesante. Salutiamo naturalmente con gioia il reintegro del FUS e speriamo che sia un nuovo inizio. Fortunatamente alcuni funzionari del Ministero e Muti, che ha fatto due interventi importantissimi, hanno convinto Tremonti che forse con la cultura si mangia, perché la cultura è vita, perché la cultura significa soprattutto il miglioramento delle persone. E così si chiude la nostra settimana dei teatri. Dall'appello di Armando Torno sono passati pochi giorni, ma il racconto della situazione dei teatri italiani cambia di tono. Dalla crisi alla necessità di ripartire. Diamo ancora la parola quindi ad Armando Torno, che così ha chiuso i nostri giorni di mobilitazione e passione per il teatro. Il Consiglio dei Ministri ha reintegrato con un decreto legge le somme tolte alla cultura. Speriamo che questo provvedimento sia permanente e non soggetto ai soliti cambiamenti che ogni governo e ogni emergenza continuamente richiedono. In Italia la cultura è un patrimonio unico, è la vera nostra ricchezza. Sovvenzionarla e curarla è un dovere per tutti noi. Al ministro Galan, appena nominato, facciamo gli auguri. Ha dichiarato: dobbiamo credere nella forza delle idee, dobbiamo lavorare fin da subito per progetti effettivamente sostenibili. E allora, insieme agli auguri di buon lavoro, lo sollecitiamo a confrontarsi con tutti coloro che vivono e fanno vivere la cultura.